2024 2024 di Enrico Pagliarini. Saluto Paolo Corleone, che è tornato in regia dopo un paio di settimane. Non è stato in vacanza, ma in altri turni qui in radio. Paolo Corleone è il nostro tecnico che cura anche la parte creativa di 2024. Benvenuti o bentornati. Questo è il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Cerchiamo ogni settimana di raccontarvi e di raccontarci come la tecnologia sta cambiando la vita. Nella prima puntata dell'anno di 2024 ci siamo chiesti: il computer è morto? In effetti la risposta è affermativa, adesso non esageriamo, non è proprio morto, però sta sicuramente morendo o cambiando drasticamente, non solo a causa dei tablet. Il destino dei PC così come lo conosciamo oggi è sicuramente segnato. Già oggi, ma sempre più sul mercato, arriveranno computer a basso costo che utilizzeranno capacità di storage, di archiviazione esterne, sfrutteranno internet per applicazioni e capacità di calcolo. Alcuni dati ci aiutano a disegnare questo scenario. Nei primi tre mesi dell'anno le vendite di computer sono calate nel mondo dell'1,1% secondo i dati pubblicati in settimana da Gartner. Sono stati venduti 84,3 milioni di computer e, se volete, giusto per curiosità, dare un'occhiata alla classifica, HP rimane il principale produttore di computer nel mondo, ha una quota di mercato del 17,6%, Acer, che è sceso molto ma mantiene una quota al secondo posto del 12,9%, Dell è al terzo posto 11,9%, poi c'è Lenovo, Toshiba e una miriade di altri produttori che hanno quote inferiori al 5% ma che rappresentano il 42,3% del mercato. Abbiamo naturalmente altre notizie della settimana. Digital News. Sempre per cercare di disegnare in parte, naturalmente, lo sviluppo della rete internet, Nicolas Sarkozy ha deciso di dedicare ad internet alcune sessioni del prossimo G8 il 24 e 25 maggio a Parigi. E vista la politica di Sarkozy spesso sbilanciata verso le grandi aziende della rete, c'è chi è un po' preoccupato in rete, ci sono vari commenti. In ogni caso, visti anche i temi, va dato atto alla politica francese di preoccuparsi di qualche cosa che sta drasticamente cambiando la vita delle persone, ma che invece la politica italiana quasi ignora. Sentite i temi messi sul tavolo per questo G8 del web: diritto d'autore, protezione della privacy, utilizzo ad esempio dei cookies, diritto all'oblio, importantissimo, neutralità della rete, altrettanto importante, cloud computing, sicurezza del web, eccetera, eccetera. Digital News. Qua invece c'è molta attenzione al digitale terrestre. Le regioni dove esistono ancora trasmissioni televisive analogiche passeranno definitivamente al digitale terrestre fra metà di quest'anno e la metà del 2012. Lo switch off riguarderà entro il secondo semestre di quest'anno Liguria, Toscana, Umbria, provincia di Viterbo, Marche, Abruzzo e Molise. Entro il primo semestre 2012 toccherà invece a Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Bisognerà poi naturalmente lavorare per liberare le frequenze che dovrebbero essere messe all'asta per i servizi di telefonia mobile, frequenze liberate, speriamo, dagli operatori televisivi, che dovrebbero fruttare 2,4 miliardi di euro, ma questa è naturalmente solo una previsione. Nonostante questa attenzione al digitale terrestre, va dato atto almeno al ministro Brunetta di cercare di cambiare, anche grazie alla tecnologia, la mentalità nella pubblica amministrazione. Da segnalare il lancio in questa settimana del nuovo portale lineamica.gov.it. Naturalmente alcuni dicono: beh, bisognerebbe non creare nuovi portali ma togliere quelli, alcuni naturalmente assolutamente inutili, della pubblica amministrazione che esistono, però insomma qualche passo in avanti lo si sta facendo. Parliamo dell'economia internet. Qualcuno ha provato a dare una dimensione alla digital economy italiana. Google ha commissionato al Boston Consulting Group uno studio che cerca appunto di fare uno scenario sull'Italia. Ne abbiamo parlato con Mark Voss, che è partner del Boston Consulting Group. Tutto ciò vale nel 2010 31,6 miliardi di euro, in crescita di quasi 10% rispetto all'anno precedente, quindi del 2009, e che vale circa 2 punti percentuali del PIL italiano. Se lo confrontiamo con altri settori, che cosa possiamo dire? Ma se lo confrontiamo con settori che hanno dimensioni simili, parliamo di utilities, di ristoranti e di agricoltura, di cui si parla molto di più rispetto all'economia dell'internet in Italia. Quello che abbiamo riferito prima, il 31 miliardi rotti, è diciamo l'economia diretta, se consideriamo anche il cosiddetto indotto, chiamiamolo così, insomma, con tutti gli effetti indiretti, saliamo di più. Ecco, oltre a questo dato le chiedo anche una valutazione sulle prospettive, cioè mentre altri settori sono o addirittura in declino o comunque stagnanti, qua stiamo parlando invece di un settore che cresce, giusto? Sì, esatto. Allora, per rispondere alla prima domanda, cioè l'indiretto, quello che non viene catturato dal calcolo classico del PIL sono principalmente tre elementi. C'è un elemento ROPO, Researched Online Purchased Offline, cioè guardo un servizio, un prodotto che mi piace online, però poi vado nel negozio a comprarlo. Questa attività in Italia già nel 2010 valeva 17 miliardi di euro. Poi dobbiamo aggiungere 7 miliardi di euro di e-procurement della pubblica amministrazione, con questa cifra siamo nei top in Europa, e poi si dovrebbe anche aggiungere circa 1 miliardo di spesa pubblicitaria online. E quindi sommando queste cifre a quella cifra del PIL internet si raggiunge circa 57 miliardi, cioè una cifra veramente notevole. Per quanto riguarda invece la crescita che noi abbiamo calcolato sulla base delle nostre previsioni è tra il 13 e il 18%, che ci porta quindi nel 2015 ad una cifra tra 59 e 77 miliardi di euro, che vale quindi circa 3,3 a 4,3% del PIL italiano. E quello che ci spiega principalmente questa crescita è da un lato i consumi dell'e-commerce, i consumi dell'acquisto di prodotti e servizi digitali online, e anche una spinta, almeno si spera, del mobile commerce, in cui l'Italia è molto ben posizionato rispetto ad altri paesi in Europa. E anche per questo motivo, vista la dimensione della internet economy, bisognerebbe parlare più spesso dell'economia digitale che sta crescendo e, come avete sentito, crescerà molto, e soprattutto dovrebbe essere la politica a parlarne di più. Ci fermiamo per un minuto, tra poco. 2024 Digital News. Abbiamo altre notizie, alcune arrivano da Milano, perché al Salone del Mobile di Milano, lo stiamo coprendo attraverso i nostri programmi, anche attraverso il nostro giornale radio, dicevo, sono state diverse le presentazioni di prodotti legati alla tecnologia, segno del crescente legame tra high-tech e design. Motorola, ad esempio, ha annunciato l'arrivo anche in Italia a metà maggio del nuovo tablet Zoom con sistema operativo Android 3.0, la versione cosiddetta Honeycomb, cioè quella ottimizzata per i tablet. Zoom ha un display multitouch da 10 pollici con risoluzione 1280x800 e sfrutta il nuovo processore dual core di Nvidia Tegra 2, molto potente. La versione con connettività 3G e memoria da 32 giga costerà 699 euro. E alcuni dicono, me compreso, che è un prezzo piuttosto importante. Speriamo che questi prezzi si abbassino nel giro di pochi mesi. Tra i vantaggi dei tablet con sistema operativo Android c'è sicuramente la possibilità di visualizzare i siti web con animazioni o video in flash. Sono circa la metà i siti che utilizzano questa tecnologia, anche se recenti dati diffusi negli Stati Uniti segnalano che fra i primi 17.000 siti internet in tutto il mondo l'uso di flash è calato negli ultimi 6 mesi dal 49 al 47%. Di poco, ma sicuramente una spinta è stata data anche dall'iPad e dalla scelta della Apple di tagliare fuori qualsiasi cosa sia in flash. Flash nel futuro di internet verrà sostituito da HTML5. Digital News. Ricorderete che lo scorso anno in alcuni paesi i servizi BlackBerry vennero bloccati o venne minacciato il blocco se RIM, la società canadese che produce lo smartphone, non avesse messo a disposizione i codici per intercettare le comunicazioni. In pratica, questi governi dicono che i servizi BlackBerry sono troppo protetti per essere intercettati dai nostri servizi segreti. Da un po' di tempo non si parlava di questi problemi, oggi gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato che vieteranno l'uso del BlackBerry per uso personale e per le aziende con numero di utenze inferiore a 20. Il servizio di musica online della Sony, Curiosity, è stato esteso dal 14 aprile anche alla PlayStation portatile, la PSP. Curiosity, lo ricordiamo, è già accessibile via internet dai computer o da altri apparecchi Sony come TV, lettori Blu-ray o PlayStation 3. Quello di cui parliamo è uno dei tanti sistemi di musica online cosiddetti cloud-based, cioè con la musica che risiede sui server remoti ed ascoltabile via internet. Ci sono due forme di abbonamento, da 3,99 e una da 9,99. Da pochi giorni online il nuovo servizio YouTube Live, i nuovi canali che trasmettono eventi dal vivo e che quindi avvicinano sempre di più YouTube al mondo della TV tradizionale. Il servizio è ancora in fase sperimentale, riservato a partner selezionati da YouTube. Ultima notizia, ne parliamo con Andrea Rossini, responsabile marketing business di Vodafone. Abbiamo parlato di un nuovo servizio che è collegato a un nuovo apparecchio, si chiama Vodafone Booster. Di che cosa si tratta? Il Vodafone Booster è un nuovo apparecchio che Vodafone propone in anteprima in Italia e che consente di avere una migliore connettività 3G, quindi connettività UMTS, all'interno di un'abitazione o di un ufficio o di un'azienda, anche in quelle condizioni in cui magari la connettività 3G non è disponibile. Si collega ad una DSL e di fatto potremmo dire che crea un hotspot, in questo caso non Wi-Fi ma UMTS, a tutte le ADSL e ovunque, cioè addirittura lo posso anche spostare da un posto all'altro? Il Vodafone Booster può essere collegato in effetti a tutte le ADSL, noi lo proponiamo in unione alla DSL di Vodafone, ma tecnicamente è collegabile anche a una connettività DSL di un altro operatore. Può essere spostato, sì, perché l'installazione è estremamente facile, però sia per un motivo tecnico che normativo deve essere comunicato lo spostamento. Quindi in realtà noi chiediamo che venga comunicato l'indirizzo presso il quale il booster è installato. Quando il cellulare aggancia questa rete indoor, questa copertura in casa o in ufficio, si accorge di qualcosa e cambia anche la tariffazione o non cambia nulla? La tariffazione rimane assolutamente invariata, di fatto è come se ci fosse una piccolissima antenna all'interno dell'appartamento o dell'ufficio, piccolissima e peraltro evidentemente con emissioni estremamente contenute, quindi assolutamente analoghe a quelle che si hanno in un modulo Wi-Fi che tipicamente c'è in un appartamento. Questo è uno strumento che per i clienti costa, giusto per fare alcuni esempi, passiamo da un acquisto per i clienti consumer da 169 euro o ad esempio ad un'offerta per il business a 5 euro al mese per 24 mesi. Ma visto che anche voi avete dei vantaggi perché scaricate la vostra rete, nel senso che fate transitare il traffico su ADSL, su internet direttamente, quindi insomma anche voi avete indubbi vantaggi. Per quale motivo io dovrei pagare per installare una cosa di questo tipo, visti anche i vostri vantaggi? Noi lanciamo oggi il Vodafone Booster perché le esigenze dei clienti di connettività sono ancora più forti di quelle che ci sono stati negli ultimi anni. Noi offriamo questa possibilità, questo apparecchio, è una scelta del cliente, evidentemente se acquistarlo o non acquistarlo, è un servizio in più, quindi è un'opzione in più che noi lanciamo per la prima volta in Italia. Senta, le faccio un'ultima domanda, voi non temete che un altro operatore possa bloccare l'utilizzo di questo servizio? Questo è evidentemente facoltà degli altri operatori, crediamo che non sia nell'interesse dell'operatore perché è evidente che noi promuoviamo l'acquisto del booster in congiunzione con la nostra offerta DSL, quindi lo rendiamo tecnicamente disponibile anche con la connettività internet di altri operatori perché questo è tecnicamente possibile e perché pensiamo che sia un diritto dei nostri clienti. Tuttavia, se venisse bloccato, evidentemente avremmo una ragione in più per promuovere il fatto che poi i clienti a questo punto passino la connettività DSL a Vodafone. Quindi vedremo, insomma, questo essendo un'innovazione dobbiamo anche stare a vedere che cosa deciderà il mercato. Crediamo che probabilmente non succederà. Vedremo che cosa deciderà il mercato, anche la risposta dei clienti. Comunque la cosa che mi interessa sottolineare è la tecnologia. Stiamo parlando di una tecnologia che si chiama Femtocella e vedremo poi anche quali altri operatori oltre a Vodafone lanceranno nelle prossime settimane, mesi, anni questo servizio. Gianfranco Giardina, responsabile del magazine online dday.it. Gianfranco, bentornato. Grazie mille, bentrovati a tutti gli ascoltatori. Ti annuncio spesso dicendo il nostro esperto di audio e video digitale. Oggi dedichiamo la puntata, insomma la seconda parte della puntata, all'audio. Sì, che cosa cercheremo di raccontare? Audio in casa, io ho detto. Audio in casa è un tema che mi verrà molto caldo, che mi fa arrabbiare moltissimo, perché negli anni, nel tempo, ci siamo tutti, un po' tutti, disabituati ad ascoltare bene. Un po' per quanto riguarda, per esempio, i televisori, che passando dal tubo catodico agli schermi piatti, hanno migliorato moltissimo anche la qualità d'immagine, la dimensione dello schermo, ma hanno peggiorato la qualità dell'audio. Gli impianti Hi-Fi tradizionali, come quelli, diciamo, di una volta, non sono più così diffusi, sono anche effettivamente un po' scomodi, però abbiamo accettato nel tempo delle soluzioni audio non all'altezza. Un sacco di ragazzi girano, ascoltano la musica con degli auricolari indecorosi dal punto di vista della resa audio. Si può fare meglio e con poco sforzo. Bene, di questo parleremo tra poco. Il nostro numero verde per chiamarci per le vostre domande e anche per le vostre considerazioni su questo tema, 800 24 00 24. Ci collegheremo anche con Maria Chiara Grandis, che questa settimana si trova a Roma. Tra poco 2024. Riprendiamo la seconda parte di 2024, io sono Enrico Pagliarini, con me oggi c'è Gianfranco Giardina che guida il magazine online, magazine digitale dday.it, e D-Day sta per Digital Day, giusto? Digital Day, certo. E tutti i giorni ormai sono Digital Day. Oggi parliamo di audio, di suono digitale. Ecco, già da questo punto volevo partire. Ormai possiamo dire, Gianfranco, che tutta la catena del suono, anche in casa, è digitale. Fino a un punto. Fino alle orecchie. No, fino all'altoparlante o alla cuffia. Cioè il trasduttore, quello che traduce un segnale che può anche essere digitale, ma è tipicamente analogico, nel senso che deve convertire in vibrazioni che poi muovono appunto l'aria e creano il suono, sia nell'ambiente o nelle orecchie per la cuffia, e questo è un apparecchio assolutamente digitale. Quindi dire che tutta la catena è interamente digitale non è vero, perché noi dovremmo avere delle orecchie digitali, cosa che non abbiamo. Anzi, abbiamo queste orecchie che hanno poi delle caratteristiche, delle facilità, delle capacità di ascoltare bene alcune cose, sono uno strumento di misura abbastanza imperfetto e quindi hanno anche delle caratteristiche che devono essere un po' secondate. Qualcuno su questa imperfezione delle orecchie ha anche pensato che si potesse sfruttare come un'opportunità, ovvero comprimere la musica perché alcune frequenze in determinate situazioni non sono così udibili. Non voglio entrare nei dettagli tecnici, però poi se la compressione dell'audio viene fatta a un livello eccessivo, ahimè, il decremento qualitativo c'è e si sente, e anche quando non si percepisce così chiaramente, comunque il nostro cervello lo intercetta e si ha un messaggio sonoro molto più stancante. Questo lo dico per tutti coloro che continuano a dire che un file MP3 suona come un CD, questa è la frase classica. Un file MP3 poco compresso e ben codificato suona molto bene, è sempre un audio compresso, questo non va dimenticato, e quindi bisognerebbe anzi stimolare, visto che oggi i supporti di memoria abbondano e la capienza abbonda, e anche per quello che riguarda poi il downloading sulla rete la banda non manca, passare da un'ottica dell'audio, la musica compressa, a una musica non compressa, compressa senza perdita. Sugli store online io vorrei vedere soltanto musica in questa codifica, non più musica in MP3, cosa che ancora purtroppo non accade. Tu hai citato una parola, l'affaticamento. Se uno ascolta un cattivo audio, che sia musica, che sia un parlato di un film, ed è di cattiva qualità, questo affatica effettivamente l'ascolto? Questo fatica per due motivi. Primo, perché se l'audio è di cattiva qualità, contrariamente a quello che si pensa, si tenderà ad alzare il volume. Perché non si capisce quello che si dice. Parlo per esempio per la TV. Se stiamo guardando un programma televisivo, dobbiamo capire quello che il personaggio dice sullo schermo, capire un dialogo. Il dialogo non è chiaramente intelligibile perché si sente male, quindi sono costretto ad alzare il volume. Alla fine del film sarò veramente stanco dal punto di vista dell'affaticamento acustico. Se invece l'audio è diffuso da un sistema adeguato, potrò permettermi un volume più basso. Quindi questo è il primo veramente luogo comune da sfatare. Quando io sento dire a qualcuno: no, ma a me non interessa un impianto audio più sofisticato di quello che ho, tanto io ascolto a basso volume, ecco, questo è assolutamente falso. Probabilmente chi ha un impianto migliore può permettersi di ascoltare bene sia a basso volume o, quando vuole, alzare il volume mantenendo la qualità. Invece chi ha un impianto scadente alzerà il volume, ma siccome l'impianto è scadente probabilmente andrà in distorsione, quindi avrà un cattivo audio sia a basso volume perché non sente, sia ad alto volume perché è distorto. Senza spendere cifre pazzesche, poi parliamo anche di soldi, perché questo è importante. A volte uno pensa: ah, io non voglio spendere migliaia di euro. Di questo parleremo oggi. Vi ricordo il nostro numero verde per chiamarci: 800 24 00 24. Se volete inviarci un sms, anche se io, essendo alla radio, preferisco ascoltare la vostra voce, in ogni caso 349 238 6666. C'è anche l'email 2024 scritto in cifra @radio24.it. Riprendiamo tra un minuto e ci collegheremo con Roma con Maria Chiara Grandis. Numbers 2024 Numbers. In che anno è nato il Dolby Surround? Numbers 2024. 16 minuti. Maria Chiara Grandis nel nostro giro dell'Italia della tecnologia. Oggi sono proprio distratto. Abbiamo fatto una domanda e dobbiamo dare una risposta, visto che abbiamo domandato in che anno è nato il Dolby Surround. È nato nel 1982, così abbiamo aggiunto un numero ai tanti numeri che abbiamo in testa. Dunque, Maria Chiara Grandis, buongiorno. Allora, ricordiamo che Maria Chiara Grandis sta facendo un giro per l'Italia della tecnologia in molti punti vendita che abbiamo scelto sul territorio nazionale. Questa settimana dove ti trovi? Sì, buon pomeriggio Enrico, oggi siamo all'Unieuro Megastore di Roma Muratella e, parlando di audio in casa, la prima considerazione che possiamo fare è che nella maggior parte delle volte, dei casi, i consumatori sono orientati verso un'unica soluzione, sia per l'ascolto del TV, sia per l'ascolto di musica che magari proviene da altri dispositivi, come ad esempio smartphone oppure radio. E quindi quello che va per la maggiore, ci dicono qui, sono sistemi di home theater per una spesa media di circa 350 euro. Come sempre, i più giovani sono i più esperti, le persone anziane invece preferiscono arrivare per gradi, diciamo così, all'acquisto di apparecchi da aggiungere al TV. E poi c'è anche qualche mito da sfatare, perché c'è chi teme di dover utilizzare troppi telecomandi, oppure c'è chi teme di dover gestire molti fili. Ovviamente non mancano gli appassionati dell'audio di alta qualità che invece l'home theater, ci dicono, lo usano solo per il TV, per guardare film, e poi si attrezzano con altri sistemi per sentire la musica. Chiaramente in questo caso, poiché la qualità aumenta, i prezzi salgono un po'. Lo sentiamo nella prima delle voci che abbiamo raccolto e che possiamo ascoltare insieme. Per l'impianto di casa, per i film, intorno ai 2000 euro, mentre per le casse normali, per la musica, 1500. Con un dispositivo si fanno tutte e due le cose, sì. Si vede il film, si ascolta l'audio del film e si ascolta la musica. Senz'altro, sì. E ti trovi bene? Molto. Prima si sceglie il TV e poi successivamente... Poi si può pensare ad integrarlo, che penso che sia un'ottima idea, certo. Io a casa ce l'ho il Dolby Surround in realtà, però lo uso veramente poco. Anche perché bisogna accendere un altro apparecchio. Allora, noi abbiamo citato il Dolby. Diciamo che il Dolby è una delle cose che vanno considerate quando si parla di TV, soprattutto di home theater, però questa cosa non c'entra assolutamente nulla con un'ottica più generale, cioè del buon audio in casa. Allora Gianfranco, cominciamo a mettere un po' alcuni punti fermi. La base per poter ascoltare in buona qualità, tu hai citato la TV all'inizio dicendo le TV diventano sempre più sottili e l'audio delle TV peggiora sempre di più. Allora che cosa bisogna fare? Allora, partire dal fatto che, come dicevamo, l'ultimo pezzo della catena audio, quindi quello che arriva al nostro orecchio, è analogico ed è pura fisica. Per generare un campo sonoro adeguato servono generalmente degli altoparlanti di dimensioni non microscopiche, se possibile, e con un volume che possano contare su un certo volume che faccia appunto da cassa armonica, semplifichiamo così. È chiaro che se il TV è spesso 2 cm, 3 cm, sia la dimensione dell'altoparlante che il volume cui può fare affidamento vengono meno. Quindi bisognerebbe sempre, se si vuole un ascolto decoroso, devo dire, aggiungere un sistema che possa anche partire da semplicemente due casse da aggiungere anche solo al TV. Alcuni TV dispongono addirittura di un'uscita già amplificata, già collegata, come dire, al volume del telecomando, quindi non si aggiunge assolutamente niente. L'accoppiamento con le casse e il TV però può essere un po', come dire, difficoltoso, perché non ci sono neanche tanti dati tecnici su che tipo di amplificatore ci sia poi all'interno del TV. Normalmente si parla di pochi watt in ogni caso, però può essere un rinforzino, chiamiamolo così, soprattutto se uno magari due casse ce le ha già, può provare a collegarle se il TV dispone di queste uscite quindi già amplificate, dove si collega il classico filo spelato, tanto per intenderci, e vedere che cosa succede. Il passo successivo è quello di aggiungere un sistema che può essere sistema stereo anche. Ecco, per sistema intendiamo amplificatore e diffusori. Diciamo amplificatore e diffusore, oppure unità centrale diffusori, perché oramai questi sistemi molte volte sono un'unica elettronica integrata che ha all'interno anche un lettore, che è un lettore di CD, DVD e Blu-ray più delle volte. Quindi invece di aggiungere semplicemente un Blu-ray player tradizionale, chiamiamolo così, uno aggiunge un Blu-ray player che integra già al proprio interno anche magari la radio FM, così ascolta anche Radio 24, già che c'è, l'ascolta in buona qualità, e anche l'amplificatore, e poi ci sono le casse. Normalmente in questi casi potrebbe essere semplicemente un sistema stereo a due casse, va già bene per esempio per migliorare l'ascolto televisivo. Il più delle volte però si parla di impianti 2.1. Qualcuno avrà sentito dire, sarà sentito nominare questo nome. Sì, si è sentito più spesso il 5.1, invece c'è anche il 2.1. Sì, il 2.1, stiamo andando insomma dal semplice al più complesso, sì. Quindi passiamo prima dal 2.1, che vuol dire due casse stereo, che però anche per motivi di adattamento estetico, di inserimento in ambiente, eccetera, eccetera, sono generalmente piccole, e quindi sono chiamati anche satelliti, il punto 1 sta per un subwoofer, quindi l'aggiunta di una cassa un pochino più ingombrante, che normalmente sta per terra e se ne sta anche in un angolino, non è troppo importante, a cui sono destinate e delegate di fatto tutte le basse frequenze, che sono meno direzionali, quindi possono, come dire, venire da un punto solo invece che da due. Così si ha il vantaggio di avere delle casse molto piccole comunque, però sì, anche un contributo in bassa frequenza, i due suoni messi insieme danno un risultato che è sicuramente migliore del solo TV. Sì. Senti, ti autorizzo anche a fare dei nomi, di marchi, eccetera, eccetera, ma se uno è ignorante in materia ed effettivamente per capirci qualche cosa di audio forse serve qualche istruzione in più rispetto all'immagine. L'immagine è facile, uno va davanti alle TV, insomma, è più semplice, sì, capire se un'immagine è buona o cattiva. Se uno non ci capisce nulla, come fa a scegliere un buon impianto di questo tipo? Perché se poi uno compra un cattivo impianto, non è che risolve molto il problema. No, è assolutamente sì. Anzi, forse lo peggiora. Ma allora, se parliamo di migliorare l'audio del TV per passare a un audio un po' migliore, un buon consiglio potrebbe essere quello di stare, per esempio, su lo stesso marchio del TV. Generalmente tutti i produttori di TV offrono anche dei sistemi audio molto semplici, diciamo nell'ordine di prezzi di cui sono stati indicati all'inizio del servizio dal punto vendita, quindi 300 euro, 400 euro, quindi assolutamente accessibili, un prezzo che comprende sia l'elettronica di base che i diffusori, e il vantaggio è, per esempio, che non è da trascurare, eh? Un vantaggio anche estetico, perché in alcuni casi la finitura di questo sistema, sia dell'elettronica che delle casse, è coordinata con quella del TV, e che è un vantaggio non indifferente. In altri casi i telecomandi sono, come dire, compatibili, mutuamente compatibili, perché la marca è la stessa e quindi io col telecomando del sistema posso anche comandare il TV e quindi avere una semplificazione. Quindi partirei onestamente da lì. Poi è chiaro che più si complica l'impianto, più serve un po' di competenza o quantomeno un buon consiglio, soprattutto se si va verso un'ottica che è sempre consigliabile dal punto di vista della qualità e della versatilità, che è quella dei componenti separati, quindi scegliere per esempio una sorgente, un amplificatore come due elettroniche separate e dei diffusori che magari sono di un'altra marca ancora. Chiaramente il risultato può essere eccelso se si sceglie bene l'accoppiamento, ma può anche essere non al livello della spesa fatta se l'accoppiamento è fatto sì, male. Qui sì, entrano sì. In campo alcuni fattori, magari poi rispondiamo a qualche domanda più puntuale. Ecco. Esatto, poi vorrei capire, ma adesso diamo spazio agli ascoltatori, vorrei capire se si può ascoltare tutto con l'impianto che si costruisce attorno alla TV. Quindi se io ascolto la musica con quell'impianto, se si può fare, certo si può fare, però se è consigliabile oppure meglio avere un altro tipo di impianto. Franco da Milano, buongiorno Franco. Buongiorno, buongiorno. Beh, innanzitutto mi fa piacere che qualcuno parli della fisica del suono, perché di questo se ne parla veramente poco. E secondo, io faccio una premessa, nel senso che io sono un audiofilo, nel senso che ascolto musica e tento di ascoltarla al meglio che si può. Difatti mi è un po' venuto da sorridere prima ascoltando le cifre del servizio che avete mandato in onda prima, perché ci sono impianti che costano centinaia di migliaia di euro. Vabbè, diciamo, adesso cerchiamo di parlare alle persone normali, poi diciamo, chi è particolarmente appassionato capisco che debba spendere, spendere molto. No, la cosa molto importante secondo me è far capire che cosa è l'alta fedeltà, nel senso che... Sì, attenzione, adesso non vorrei, noi non stiamo parlando di alta fedeltà, stiamo parlando di un casa di un normalissimo abitante italiano che vuole ascoltare bene, partendo dal punto di vista che abbiamo espresso all'inizio della trasmissione, che normalmente molta elettronica di consumo ha peggiorato l'aspetto audio. Detto questo, le lascio ancora la parola, Franco. No, nulla, io sono perfettamente d'accordo con il vostro ospite nel sostenere che la qualità MP3 è sostenibile, nel senso che non comprendo il perché e comprendo la miriade di persone che scarica ancora da internet accontentandosi di questo tipo di qualità. È questo che non riesco a comprendere. Poi è chiaro, ci sono problemi di costi, ci sono problemi di apparati e questo è normale, però per ascoltare anche sulla parte domestica, secondo me ci sono degli strumenti, come avete detto voi, che non hanno costi esagerati ma che possono sicuramente migliorare la qualità dell'ascolto. Franco, grazie di averci chiamato. Francesco dalla provincia di Roma, buongiorno. Sì, buon pomeriggio, grazie della trasmissione che è bellissima. Volevo sapere, ma hanno tolto dalla circolazione, che io sappia almeno, i famosi impianti hi-fi, tipo non so, amplificatore e diffusori non so, a tre vie, a due vie, perché io ho cercato, ma un commesso di un centro mi ha fatto ultimamente vedere una cassa, un diffusore, è un due vie, che è un woofer, ma è rimasto lì un po' così allibito, come se avessi chiesto non so che cosa. Dice no, ma non c'ha altoparlanti. Adesso non so come sono fatti i pezzi. Chiediamolo a Gianfranco Giardina. No, Gianfranco. Per ultimo, famosa radio DAB che fine ha fatto. Ah, ma lei non ha ascoltato la puntata due puntate fa. Dovrei tornare a dire delle cose che ho già detto. Intanto rispondiamo, Gianfranco, mi segno il DAB. Allora, per il primo ascoltatore soltanto un nota: non è internet il nemico è la codifica malfatta dei file, anche quelli che vengono venduti online, quindi su internet si potrebbero fare musica non compressa, quindi la musica scaricata da internet potrebbe essere buona. Anzi, c'è un sito americano che... c'è qualcuno che lo fa, ci sono dei siti di D-Day.it ha segnalato un sito internet americano che vende musica non compressa, assolutamente non compressa. Venendo al secondo ascoltatore, purtroppo un po' di anni di, come dire, difficoltà del mercato dell'alta fedeltà l'hanno chiuso in una nicchia, per cui in questo momento può capitare che si vada in qualche negozio e magari si trovi innanzitutto un giovane commesso magari che non abbia vissuto gli anni d'oro dell'alta fedeltà e quindi magari non capisca granché, ma è naturale perché la domanda, ahimè, non è granché, quindi non si trovano spesso e volentieri clienti che vanno a chiedere, ma scusi, il woofer, il midrange, due vie, tre vie, cioè è abbastanza raro, di conseguenza la preparazione dei commessi si adegua a quello che il mercato chiede e anche l'offerta dei negozi si adegua a quello che il mercato chiede. In pochi stanno chiedendo questi sistemi che garantiscono, ci sono ancora, attenzione, ci sono ancora in commercio, sono ancora in vendita, che garantiscono la migliore qualità audio. E proprio per questo che stiamo anche per questo che stiamo facendo questa trasmissione. Vorremmo risvegliare nel cuore, direi nelle orecchie di molti, no? La voglia di andare a capire come si fa per ascoltare meglio e se ci sono dei mezzi. La risposta è che i mezzi ci sono, gli amplificatori ci sono, i diffusori a due vie, tre vie che le chiedi ci sono, bisogna chiederli. Chiedendoli nei negozi, probabilmente anche l'atteggiamento dei negozi che in questo momento hanno escluso dalla loro gamma l'alta fedeltà più blasonata, magari può anche essere rivisto. Sì, e lasciatemi dire, anche l'ascolto della radio può beneficiare molto da un impianto ben fatto o anche da un apparecchio radio, una classica radio, ma che abbia una buona diffusione. Ci sono degli apparecchi che hanno diffusori molto generosi, anche le nostre voci, quello che raccontiamo tutti i giorni su Radio 24, insomma, può arrivarvi alle orecchie in modo migliore. Adesso c'è la pubblicità, 2024 riprende tra poco. 2024. Sono le 16:34 minuti, visto che siamo alla radio, oggi abbiamo dedicato una trasmissione, parte di questa trasmissione, all'audio, come ascoltare al meglio nelle nostre case. Potremmo dedicare parecchie ore. Rispondo all'ascoltatore che ha fatto un accenno al DAB, quindi alla radio digitale, Digital Audio Broadcast. Purtroppo siamo ancora stiamo finendo la fase di sperimentazione, diciamo così. Tutti gli editori radiofonici italiani sono in attesa dei diritti d'uso, quindi dell'assegnazione definitiva, potremmo dire, delle frequenze per passare alla fase commerciale della radio in tutta Italia. Quando ci saranno notizie saremo i primi a darvele, anche perché Radio 24, così come i principali network italiani, è coinvolta in questa digitalizzazione della radio. Però attenzione, non succederà la cosa che sta succedendo alla TV, cioè non ci sarà lo switch off delle frequenze analogiche. L'FM continuerà ad esistere e probabilmente continuerà ad esistere per i prossimi 10, 20, 30 anni e gradualmente il territorio italiano lo sta già subendo questa fase di trasformazione, verrà coperto dai segnali del digitale radiofonico DAB, Digital Audio Broadcast. E poi naturalmente bisognerebbe fare un discorso parallelo per internet, perché mano a mano che si diffonde la copertura internet e la possibilità di ascoltare internet anche in mobilità attraverso smartphone e sempre più spesso anche, vedrete nel futuro, nelle automobili, ci sarà una bella competizione per tutti i segnali, chiamarli radio mi diventa un po' difficile, sui segnali audio che girano su internet. Marco da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo chiedere a lei e all'esperto presente cosa ne pensava di quelli che vengono chiamati proiettori acustici, nel senso che ho visto la pubblicità di diversi prodotti, Yamaha, Philips, alcuni con lettore Blu-ray incorporato, altri con subwoofer più o meno wireless, e volevo appunto capire cosa ne pensava e quali potrebbero essere le loro applicazioni. Molto chiaro, grazie Marco, grazie per averci chiamato. Gianfranco. I proiettori acustici dal punto di vista prettamente tecnologico sono una meraviglia, almeno i progetti più importanti. Si tratta di fatto di monodiffusori, quindi un diffusore unico, una soundbar che va messa sotto il TV, tanto per intenderci, che non dispongono di due o tre altoparlanti, ma di un numero notevole di piccoli altoparlanti messi in matrice. Per notevole potrebbero essere 18, 24, 36 e così piccoli, via. Piccoli proiettori. Piccoli coni. Come funziona? Praticamente un DSP, quindi un chip digitale, un microprocessore, si occupa di elaborare il suono quindi di pilotare in maniera differente tutti questi altoparlanti per proiettare di fatto il suono in determinate direzioni e invece evitare che il suono vada in altre direzioni. Come fa? Semplifico molto, ovviamente, anche perché spiegarlo radiofonicamente non è facile, ma se un diffusorino, se un altoparlante dà un messaggio sonoro e quello di fianco che sta alla sua destra dà il messaggio sonoro perfettamente opposto, cioè in controfase, creerà una cancellazione, quindi questo suono si diffonderà più verso la zona sinistra che verso la zona destra. Se noi mettiamo insieme tutto quello che fanno e tutti gli altoparlantini messi insieme, ecco che questa cassa è in grado di dirigere un messaggio sonoro sulla destra, un messaggio sonoro diverso sulla sinistra, un altro verso l'alto, eccetera eccetera. Questo con un microfono che fa una precalibrazione, cioè quando si installa questo proiettore sonoro bisogna fare questa calibrazione. L'altoparlante resta chiuso nella stanza per 5 minuti a emettere suoni e a percepire attraverso il microfono, fa una taratura e va a sfruttare quelle che sono tutte le pareti riflettenti dal soffitto, le pareti laterali, ammesso che siano riflettenti, per creare anche un effetto surround. Quindi quello che succede è che con una cassa sola noi percepiamo non soltanto il suono del canale destro e sinistro, ma anche il suono che arriva da dietro. Da dietro. E se l'ambiente è adeguato, cioè ha pareti simmetriche e che riflettono abbastanza, soprattutto nel quadrante anteriori, l'effetto effettivamente c'è. Però va detto che poi questi progetti, per raggiungere costi un pochino più adeguati, nel tempo sono stati un po' troppo semplificati. Quindi se io invece di avere 50 altoparlanti ce ne ho 20, è chiaro che la capacità di proiettare questo suono sarà un po' più limitata. Se invece di 20 ce ne ho 12, è peggio ancora, e così via. Quindi bisogna stare attenti. Ecco, se si sceglie un proiettore sonoro, il consiglio è quello di non orientarsi sugli entry level, che generalmente di proiettore hanno soltanto il nome e non sono invece in grado di creare questo effetto decisamente soddisfacente. Se poi uno ha una stanza molto asimmetrica oppure molto assorbente, il consiglio è quello di non optare per questo tipo di apparecchi, che non funzionerebbe bene. Lasciar perdere. Claudiano da Bari, buongiorno. Non c'è più. Claudiano, pronto? Sì, pronto. Buonasera. Lei è Claudiano o Aulo da Udine? Perché vedo un po' di... Claudiano. Ah, eccolo qua, eccolo qua. Buonasera. L'ascoltiamo. Allora, volevo fare una domanda all'esperto in merito a un... Io ho un televisore, un signor televisore LCD 200 Hz, e ho attaccato un impianto 2.1 con due satelliti e un subwoofer, però l'ho attaccato tramite il jack della presa della cuffia. Volevo capire, ma si distorce il suono anche attaccandolo dal jack, oppure devo seguire il procedimento standard che tramite il quale si attacca un impianto al televisore? Risposta di Gianfranco Giardina. Deve seguire il procedimento standard, ovvero sia usare, se il televisore, come dice, è un televisore attuale e l'impianto audio anche, il collegamento digitale ottico. Tutti i migliori TV dispongono di un'uscita digitale ottica, e questa uscita digitale va mandata all'impianto, anche perché in questo modo riuscirebbe a godere di una catena fino all'altoparlante, come abbiamo detto, interamente digitale, perché ormai la TV è trasmessa per via digitale. Anche l'audio ovviamente è digitale, in alcuni casi è Dolby Digital 5.1, il suo sistema audio, anche se è 2.1, comunque potrebbe ricevere l'intero audio digitale se è collegato così. Collegando con la presa cuffia mette insieme anche, come dire, apparecchi non adeguati. La presa cuffia vanno attaccate le cuffie. Dunque, da Bari ci spostiamo a Udine, poi andiamo da Maria Chiara Grandis. Aulo, buongiorno. Buongiorno, grazie intanto per farmi intervenire. Io ho una domanda semplice, nel senso che ho acquistato un anno fa un home theater 5.1 pensando di poter ascoltare qualsiasi programma televisivo o qualsiasi film, invece anche con la pay per view del noto, diciamo, della nota emittente, non so se si possa fare il nome per pubblicità. Beh, della... ce ne sono due, ecco, Sky o Mediaset. Ecco, della Sky, io non riesco a sentire l'audio su tutte e cinque, in particolare sulle casse che ho messo dietro le spalle. Ecco, volevo capire che quale tipo di televisione o che cosa devo, come fare per farlo funzionare. Sì. Ecco. Grazie Aulo, forse Gianfranco non ci sono i programmi che trasmettono con il 5.1. No, ma i programmi ci sono tanti, e che anche se non sono in 5.1, per esempio molti sono in Dolby Surround, che comunque creano, seppur matricialmente, dei canali posteriori. Quindi il problema, a mio avviso, è un problema, per le informazioni che abbiamo, di collegamento. Quindi il 5.1, il segnale 5.1 passa solo sulle connessioni digitali. Se il nostro ascoltatore ha collegato il suo decoder di Sky con un cavetto analogico con le uscite stereo bianche e rosse, tanto per intenderci, avrà un segnale soltanto stereo. Deve collegarlo con un cavo ottico o coassiale digitale. Sì. Dunque, rispondo a un SMS, dice: ma come si può ascoltare Radio 24 in hi-fi se trasmette in mono? Beh, le due cose non c'entrano nulla l'una con l'altra, correggimi se sbaglio, ma soprattutto, essendo noi una radio di parola, il 90% di quello che emettiamo sono voci, la voce è mono e quindi sarebbe inutile trasmettere in stereo. Anzi, aumenteremmo in FM il disturbo e quindi le cose peggiorerebbero. Sarebbe dannoso anche per la percezione. E il motivo per cui nei sistemi on theater esiste il canale centrale, che sta in mezzo e che è mono, è proprio quello di trasferire la voce, perché avere un'immagine stereofonica di una voce è un'immagine impropria, perché la bocca è una sorgente puntiforme praticamente, quindi l'ascolto della voce è migliore in mono che in stereo. Quindi non è un caso che siamo mono. No. Dunque adesso traffico e dopo ci colleghiamo con Roma, Maria Chiara Grandis. 2024. Vi ricordo che anche questa puntata sarà disponibile attraverso il sistema podcast di Radio 24. Poco dopo la trasmissione potrete scaricare il file, anche in questo caso MP3, però diciamo insomma torniamo al punto di prima, essendo noi una radio di parola con poca musica e pochi effetti, in questo caso Gianfranco il file MP3 è giustificato. Lo tolleriamo insomma. Maria Chiara Grandis nel nostro Giro d'Italia oggi a Roma ha incontrato un paio di persone all'interno del punto vendita per un ulteriore contributo sul tema di oggi. Sì Enrico, perché abbiamo voluto chiedere innanzitutto qualche consiglio sui sistemi audio per la casa e poi anche qualche dato sulle vendite. A questo proposito ti rassicuro perché c'è una buona notizia ed è quella che qui ci dicono che l'interesse per il settore si sta risvegliando. Di tutto questo noi ne abbiamo parlato con il consulente per le vendite del settore audio-video Andrea Belli e con lo store manager del punto vendita Alessandro Bastianini. Realmente noi consigliamo comunque l'installazione di un 5 casse, in quanto comunque riesce a far girare meglio il sonoro dentro l'ambiente, a ricadere meglio sia il cinema che a livello musicale, dà un sonoro più omogeneo dentro tutto l'ambiente. Si scelgono le casse o la soundbar? Di norma si scelgono le casse, perché comunque per un'installazione di una soundbar richiede appositamente comunque o una tipologia di mobile o comunque un'installazione a parete. Sembra che la scelta sia orientata molto all'estetica. Sicuramente l'estetica ha il suo peso, in quanto comunque il televisore è più sottile e dà più design. Di conseguenza anche l'impianto comunque deve seguire lo stesso design. Noi consigliamo sempre anche di magari andare sulla stessa marca sull'impianto, tale sia da avere un vantaggio dal punto di vista del telecomando, tale che il telecomando del TV piloti anche l'impianto. Allo stesso tempo, comunque, solitamente il design degli impianti riprende quello del televisore. Che informazioni portarsi da casa? Come provare gli apparecchi? La cosa migliore è sapere mediamente l'ambiente in cui deve essere installato, tale appunto da poter sapere quante casse si possano installare, la potenza dell'impianto che serve per appunto adattarlo al meglio al suo ambiente. Poi ovviamente di solito si richiede sempre sapere se vuole un prodotto più design o più qualitativo. Ma si riesce a coniugare design e qualità del prodotto? Si riesce, ovviamente i prodotti che danno sia qualità che design sono comunque solamente delle fasce di prezzo un pochino più elevate. Un tempo si parlava molto di effetto surround. Più che l'effetto surround, la gente cerca di integrare quello che è l'impianto cinema con l'impianto stereo. Poi ovviamente c'è la persona a cui piace proprio l'effetto cinema e quindi cerca un tipo di impianto a 5 casse, tale appunto che il cinema sia reale. Il 2 casse non sempre riesce a rendere al meglio. In alternativa ci sono i diffusori anche per l'iPhone. Sono molto utilizzati in quanto comunque permette di ricreare con un piccolo apparato un tipo di impianto stereo per amplificare un ambiente pure di grandi dimensioni. E la diffusione nelle varie stanze della casa contemporaneamente non usa più? È difficile trovare la persona che richieda comunque ancora la filo diffusione dentro casa, perché comunque prevede un'installazione molto più complessa. Comunque questi apparati portatili permettono, senza alcuno sforzo, di avere la propria musica sempre con sé. Sicuramente un vantaggio è di avere una filo diffusione soltanto con un PC e una cassa singola. E sui nuovi stereo ci sono difficoltà nella lettura di tutti i file? Il 90% dei file vengono riprodotti, anche perché si parla comunque di file MP3 di varie qualità. Quello è il più richiesto. Ma oggi le cuffie in casa si usano ancora? Le cuffie senza filo comunque sono un prodotto molto venduto. Quella che non si utilizza molto è la classica cuffia a padiglione, soprattutto se col filo. È un settore su cui puntate? In passato ha avuto una flessione importante il settore dell'audio. E questo più che altro è dovuto anche a un discorso, come dicevamo poc'anzi, dell'integrazione di più apparecchiature in un'unica sola. È pur vero che oggi è abbastanza stabile, il 3D sta risviluppando interesse nei confronti del consumatore proprio perché vorrebbe avere un qualcosa che completi l'effetto cinema nei suoi appartamenti, nelle proprie case. Ebbene, ringraziamo Maria Chiara Grandis dal centro commerciale Unieuro di Roma Muratella. Saluto Michele che ci telefona da Verona. Michele, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, intanto complimenti per la trasmissione, anche se è una cosa ovvia. Niente, avrei una domanda abbastanza semplice. Sì. Allora, diciamo, io sono sempre stata una persona, tra virgolette, abbastanza tecnologica, però per quanto riguarda il discorso video e audio sono rimasto un po' indietro, vi spiego. Tengo ancora un televisore CRT perché fino ad oggi il CRT, da quanto ho capito, riporta ancora i colori migliori. Sto pensando però di passare a un pannello 50 pollici e qua entro nel discorso del plasma, perché oggi come oggi tutti quanti i centri commerciali oppure persone che si ritengono essere un po' esperte mi dicono che essere migliore per la resa cromatica e affatica meno la vista che non fa un LCD. Giusto. Aspettavo l'OLED, ma l'OLED ho capito che dovremmo aspettare troppo, quindi non diventerò troppo vecchio. Diventiamo tutti vecchi. Ecco. Esatto, quindi a questo punto cosa ho fatto io? Prima, quando con questo mio CRT ho una marca nota che è un, diciamo, home theater 5.1, ha la fibra ottica però non è digitale, non ha l'HDMI per capirci. Allora la domanda è questa: se io acquistassi un televisore plasma, esiste qualche cosa nel mezzo che mi possa trasportare o trasformare il segnale audio in digitale o viceversa? Perché dovrei, se non ho capito certo male, dovrei sostituire questo home theater e mi dispiace perché è un bel pezzo, cioè un Harman Kardon 9000, quindi era un bel pezzettino, come adesso ho fatto la marca, chiedo scusa, ma era un... Sì, ma è chiarissimo. Attrezzo. Per evitare di sostituire anche l'home theater, c'è qualche soluzione, Gianfranco? Allora, se con l'home theater lei vuole fare quello che fa oggi, non deve sostituire nulla. Semplicemente prenderà l'uscita digitale ottica che sul suo TV nuovo sarà comunque disponibile, la collega al suo vecchio amplificatore e il suo sistema continuerà a funzionare perfettamente anche nell'ascolto dei canali televisivi, anche nel caso in cui questi canali televisivi fossero in 5.1. Quello che non potrà fare senza un'elettronica già compatibile con l'HDMI è quello di ascoltare l'audio, diciamo, ad altissima risoluzione contenuto sui Blu-ray disc, perché quest'audio, quello diciamo multicanale non compresso, passa solo e soltanto dalla connessione HDMI, quindi arriverebbe al suo TV ma non potrebbe arrivare al suo amplificatore. Ma questo è l'unico limite che si troverebbe davanti. Per tutto il resto il suo impianto funzionerebbe perfettamente, quindi le consiglio di tenerlo, ovviamente. Dunque, anche perché è un bel impianto. Assolutamente. Dunque, mancano pochi minuti al termine della nostra trasmissione. Prima di concludere, è importante dire qualche cosa sulle cuffie e soprattutto sulle cuffiette, quelle piccole che vengono accoppiate ai lettori MP3. Sì, soprattutto in considerazione di quanto vengono usate, sono state usate in questi anni, vengono usate negli ultimi anni. Oramai basta andare su un mezzo pubblico qualsiasi, almeno metà delle persone, soprattutto le persone giovani, ascoltano musica in cuffia. Ecco, su questo punto, normalmente le cuffie che vengono date a corredo con gli iPod, eccetera, eccetera, sono di buona o cattiva qualità? Perché sono normalmente degli auricolari e normalmente sono anche di qualità scadente per due motivi, o meglio l'ascolto che ne deriva è scadente per due motivi. Un primo motivo è che la qualità spesso è molto limitata e va bene, questo è un fatto dell'auricolare, uno dice vabbè, ma io compro un auricolare che invece funziona bene e quindi dopodiché risolvo questo problema. Il secondo però problema è il fatto che la resa dell'auricolare è incredibilmente dipendente dal suo posizionamento all'interno dell'orecchio. Quindi se basta fare una prova molto semplice, se uno si spinge l'auricolare più a fondo nell'orecchio sentirà molto di più le basse frequenze, se uno se lo leva un pochino più in fuori non sentirà molto meno le basse frequenze. Qual è il modo giusto di ascoltare? Probabilmente nessuno dei due. Il fatto è che questa dipendenza estrema, poi anche il fatto di come si accoppino gli auricolari con i diversi tipi di orecchie, le orecchie non sono tutte uguali, e quindi rende questo ascolto molto poco hi-fi, molto poco. Quindi hi-fi. Meglio comprare un auricolare di buona qualità con un sistema che sia... una cuffia padiglione, quindi adesso stanno tornando di moda, per fortuna, e non è soltanto un fatto di moda o quindi estetico, è anche un fatto acustico, quindi il problema si ascolta molto è meglio. È proprio l'auricolare in sé che non va bene per l'ascolto. L'auricolare, allora, gli auricolari abbiamo che funzionano bene qualitativamente costano moltissimo e richiedono un gommino, tanto per intenderci, fatto su misura sull'orecchio. Maria quindi... Chiara Grandis, concludiamo questo nostro collegamento da Roma. Sì, Enrico, noi abbiamo voluto anche approfondire con i consumatori qui all'Unieuro Megastore di Roma Muratella l'aspetto dell'ascolto della musica in casa, anche se dobbiamo dire che il luogo dove si ascolta di più la musica è l'auto, e questo ce l'hanno detto un po' tutte le persone che abbiamo intervistato, però molti di coloro che lo fanno scelgono lo stereo, anche perché con i nuovi mini e micro hi-fi non si ruba troppo spazio in casa. In questo caso la spesa media è di circa 100 euro, ma oggi stanno diventando sempre più comuni anche i diffusori per iPod e iPhone e garantiscono anche la portabilità dentro e fuori casa, e i prezzi, ci dicono qui, si sono abbassati. Sentiamo ancora le voci che abbiamo raccolto. Quelle poche volte che la sento a casa tramite stereo, mai attraverso la TV. E i gusti sono dettati dall'aspetto estetico o anche dal prezzo? Tutto sulla qualità, certo, a un livello di spesa contenibile. Come l'hai scelto il tuo stereo? In base a quali caratteristiche? Beh, in base alle funzioni, alla potenza, anche la marca. Ho visto che la signora è molto incuriosita da questo diffusore, perché? Da portare in viaggio, sì, per sentire quello che c'è sull'iPod o sull'iPhone, però dovrebbe essere ancora più piccolo. È tutto per questa puntata di 2024, grazie a Gianfranco Giardina. Gianfranco, ci risentiamo tra 15 giorni. Certamente, saluto tutti gli ascoltatori. Ricordo Gianfranco Giardina, direttore di dday.it, grazie a Paolo Corleoni in regia, a Giorgio De Luca e Viola Bottoni che ci hanno aiutato oggi in redazione, anche a Rosa al centralino. Io sono Enrico Paglierini, ci risentiamo via podcast su www.radio24.it oppure la prossima settimana. 2024. 2024. 2024. 31 seconds.